estrema nella professione cristologica, ma che intanto segna un impianto di forte valore filosofico. L'espressione netta è almeno in prima battuta provocatoria. Lo sarà ancora di più quando con una giunta Kierkegaard parrà ridurre la definizione del paradosso a quella dell'inverosimile e persino a quella dell'assurdo. Quanto basta per far parlare alcuni interpreti di un ritorno irrazionalistico, appena mascherato nei modi di una pseudo-dialettica, ma occorre entrare nelle pieghe del gioco polemico ed intendere in che senso Kierkegaard abbia propriamente parlato di paradosso, anzi del paradosso come forma essenziale della ragione. In linea preliminare occorre tener ben conto dell'avvertenza con cui lo stesso Kierkegaard sembra prevedere la mossa dei suoi obiettori. Dice: non bisogna pensare male del paradosso, perché il paradosso è la passione del pensiero e i pensatori privi di paradosso sono come amanti senza passione, mediocri compagni di gioco. Nella citata giunta, Kierkegaard fa poi notare che le regole dell'intelletto non sono contrarie a quelle del paradosso, purché paradosso e intelletto si incontrino nella comune comprensione della loro diversità. Solo dove questo non accada si potrà parlare di uno scandalo dell'intelletto. Quel che qui è affermato sin dall'inizio è dunque una differenza di piani conoscitivi e in questa una priorità del paradosso rispetto all'intelletto. Dovremmo anzi dire una priorità della ragione di cui il paradosso costituisce la passione. Parrebbe così che il ruolo del paradosso coincida con una funzione trascendentale, nel modo in cui, ad esempio, per Kant, la ragione si dà alle radici dell'intero processo coscienziale, distinguendosi dall'intelletto. Il paragone, almeno per un certo aspetto, non è fuori luogo, solo che si rilegga l'avvio delle briciole, dove Kierkegaard riflette sulle radici del sapere, rivisitando l'argomento del Menone, e come infatti, qui la memoria di Platone è importante, come infatti potremmo interrogarci, egli torna a notare, se già non fossimo mossi da un qualche sapere e se possiamo cercare solo ciò che già in qualche modo sappiamo, non si tratta allora di risalire sempre alla verità che ci costituisce e da ultimo, in linea di principio, al principio stesso di ogni verità? Da un presapere all'altro non si deve, in definitiva, risalire a quell'origine che nel fondo di ogni coscienza si dà come l'immemoriale richiamo dell'inizio? Con questo siamo appunto all'impianto paradossale della ragione. Siamo nella contingenza di una situazione finita e tuttavia avvertiamo che in questa si nasconde il rapporto con l'infinito. Questa è la conclusione socratica di Kierkegaard. Il punto di partenza temporale, dice Kierkegaard, è un nulla, perché nello stesso momento che io scopro che fin dall'eternità ho saputo la verità senza saperla, nello stesso istante quel momento è nascosto nell'eterno. Siamo peraltro alla riflessione con cui Kierkegaard si contrappone all'incominciamento della logica hegeliana, una riflessione che risale alle radici costitutive del pensiero, ma con l'avvertenza che il pensiero poggia sulla differenza della propria origine, una riflessione che si arresta dove ne va del suo esserci e che con il suo arresto lascia emergere l'inizio che tuttavia la trascende. Siamo appunto a quella struttura trascendentale che è già in se stessa un paradosso e che in seguito Kierkegaard preciserà nel segno di una riflessione doppia. Si pensi in particolare a quella definizione dell'io che sta all'inizio della malattia mortale, dove si dice dell'io come spirito e dello spirito come sintesi di finito e infinito. Sintesi che ha anche autocoscienza, rapporto con sé, ma rapporto che appunto non sta in se stesso, che in sé vive di una costituzione dall'alto e che dunque, volendo essere se stesso, si fonda in trasparenza nella potenza che l'ha posto. Questa definizione ci riporta con chiarezza alla passione del pensiero, l'infinito come origine, come riferimento costitutivo della riflessione e nel fondo di ogni pensiero finito, ma nella sua differenza ad un tempo come l'impensabile da una coscienza determinata nel recinto della finitezza, sicché il paradosso più alto è dunque la passione profonda del pensiero, la passione che sta nell'essere chiamato a pensare qualcosa che non si può pensare. La passione di cui si dice va qui intesa in senso passivo e in senso attivo. È una passività perché nasce da una costituzione che la supera, da una potenza che appunto l'ha posta. È attiva perché non può che riferirsi, sia questo dato tematicamente o no, non importa, non può che riferirsi al suo principio costitutivo. Potremmo tradurre questa duplice valenza con una figura drammaticamente più esistenziale, con quell'intreccio di tensioni opposte di cui Kierkegaard aveva già parlato, definendo appunto il concetto dell'angoscia, una simpatia simpatica ad una antipatia simpatica. Chiedo scusa, una simpatia antipatica ed un'antipatia simpatica. Dunque un desiderio che necessariamente si deve desiderare e che tuttavia per la sua impensabilità, per la sua indeterminatezza ad un tempo ci respinge nella vertigine più profonda. Anche qui siamo riportati all'incominciamento hegeliano con nulla, ma con un senso diametralmente opposto al dettato di Hegel. L'indeterminabilità dell'infinito non va confusa con un nulla, perché dal suo fondo viene in ogni modo il richiamo, l'incitamento della ragione, e tuttavia il suo volto resta quello dell'ignoto. Al vertice della ragione, desiderio e angoscia si danno così come condizioni, vorrei dire, trascendentali, laddove potremmo dire la logica rifluisce oltre i modi della doxa nel paradoxos appunto. La passione dell'intelligenza, dice testualmente Kierkegaard, la passione dell'intelligenza per il paradosso si scontra sempre con questo ignoto che certamente esiste, ma è anche conosciuto, ma è anche sconosciuto e sotto questo punto di vista non esiste. La ripresa capovolta dell'incominciamento hegeliano si fa esplicita se ricordiamo un passo del diario dove Kierkegaard riprende la formula coniata da Hegel in opposizione a Schelling, la notte dell'assoluto. Ma qui Kierkegaard sta semmai proprio dalla parte di Schelling. L'uomo, dice, ha naturalmente orrore di camminare nel buio. Che meraviglia allora che egli abbia naturalmente orrore della presenza dell'assoluto, d'entrare in relazione con quell'assoluto del quale vale che nessuna notte, nessuna tenebra non è neppure la metà così oscura, come quella tenebra e quella notte dove tutti gli scopi relativi, dove tutti i riguardi, dove gli stessi sentimenti più intimi e delicati dell'affetto sono spenti. Ritorneremo sul rapporto con Schelling, ma intanto fermiamoci alla questione di fondo. Si può dire infine che nella figura del paradosso, così come definita da Kierkegaard, si celi proprio il senso ultimo, più alto del pensiero, o al contrario, vi si deve riconoscere nient'altro che la maschera dell'irrazionale? Il paradosso sta, come si è visto, nella diade finito infinito, e più propriamente, nella immanenza dell'infinito, sempre costitutiva e sempre trascendente per la coscienza. Ma con quale legittimità si introduce qui la nozione dell'infinito o del fondamento che fonda la ragione di là dalla ragione? E questo è il punto. Si può tentare una risposta tornando ai luoghi in cui Kierkegaard mette in questione la possibilità di dimostrare la realtà del riferimento infinito. L'avvio polemico delle briciole nasce appunto dalla duplicità dello spirito finito e infinito insieme. Kierkegaard ricorda il dubbio di Socrate che di sé non sa dire se sia un mostro più strano di Tifone o se invece non sia un animale più mite, partecipe per natura ad una sorte quasi divina. Anche Socrate, dunque, colui che era lodato come l'uomo che indubbiamente ha meglio conosciuto l'umanità, ha dovuto incontrare il limite dell'ignoto. Ma che cos'è allora, si chiede Kierkegaard, questo sconosciuto contro il quale l'intelletto va a sbattere nella sua passione paradossale e che confonde all'uomo la sua conoscenza di sé? È l'ignoto. Questo sconosciuto, chiamiamolo allora Dio. Questo attributo che gli diamo però è soltanto un nome. Di dimostrare che questo sconosciuto Dio esiste, l'intelligenza ci pensa appena. Il rifiuto di Kierkegaard nasce a ben vedere da una distinzione in cui si articola lo stesso concetto di esistenza. Poco dopo leggiamo infatti, sia che si chiami l'esistenza un accessorium oppure il prius eterno, non si può mai dimostrare. La distinzione di estrazione scolastica implica nel primo caso quello della realtà finita e contingente, che l'esistenza non possa considerarsi un attributo intrinseco ad una realtà. L'esistenza, come del resto era tornato a ricordare Kant, non aggiunge e non toglie nulla alla natura di un essere e pertanto non è analiticamente deducibile dalla sua essenza. Non è però neppur deducibile dagli effetti che da quella realtà potrebbero derivare. Non sarebbe quanto mai strano, nota ironicamente Kierkegaard, dimostrare l'esistenza di Napoleone da qualche impresa di Napoleone? E infatti, se è la sua esistenza che spiega le imprese, ma le imprese non dimostrano la sua esistenza, a meno che io già non abbia in precedenza compreso il termine sua, in modo che in esso assuma che egli esiste. Napoleone non è che un singolo e per questo non c'è fra lui e le sue imprese un rapporto assoluto, cosicché avrebbe potuto benissimo averle compiuto qualsiasi altra persona. Non così invece per l'assoluto di cui l'essere costituisce il prius, per il quale si deve allora ripetere con Spinoza che la sua essenza involvit existentia. Per questo si deve anche affermare che fra Dio e le sue opere c'è un rapporto assoluto. Dalle sue opere si dovrebbe dunque risalire al suo essere, ma quali sono le opere di Dio? Sembra che qui Kierkegaard ripercorra la critica kantiana, i modi finiti con cui ci si offre l'esperienza non comportano in quanto tali l'evidenza dell'infinito e dunque non permettono alcuna deduzione metafisica. L'asserto spinoziano vale dunque solo sul piano ideale. A questo livello si deve riconoscere che l'idealità più alta è il necessario, perciò esso è, ricorda Kierkegaard. E aggiunge, la proposizione di Spinoza è allora del tutto esatta e la tautologia sta al suo posto. Ma poi qual è il valore di questa tautologia? Cosa significa che l'idealità più alta è necessariamente l'essere e qui proprio un predicato soltanto ideale? Ma allora che senso ha dire, come fa Kierkegaard nella nota appena citata, che proprio questo è l'aspetto profondo in Spinoza? Le osservazioni di Kierkegaard, almeno a prima vista, non sembrano aiutarci molto. ne vanno esenti da una certa ambivalenza. Per un certo verso la frase che dice l'idealità più alta è, può essere letta come un asserto puramente ideale, puramente concettuale. In una pagina del diario, riferendosi anche a Leibniz, Kierkegaard dice anzi esplicitamente: la tesi leibniziana, se Dio è possibile, è necessario e giustissima. Ad un concetto non si aggiunge nulla in più, sia che esso abbia o non abbia l'esistenza. Nulla importa al concetto di questo, perché esso ha ben l'esistenza, cioè soltanto l'esistenza di concetto, soltanto esistenza ideale. La tautologia di Spinoza sarebbe allora tutt'altro che profonda e non servirebbe a costituire una solida base del pensiero metafisico. Il paradosso della ragione non avrebbe un valore propriamente reale e in tal senso non sarebbe altro che una proiezione ipotetica del pensiero, Dio soltanto come possibile. Dall'altra parte, però, quando Kierkegaard dice che la proposizione di Spinoza è del tutto esatta, aggiunge subito una nota critica che ci porta in una direzione diversa rispetto alle tradizionali critiche della prova ontologica. Dice: la proposizione di Spinoza è del tutto esatta e la tautologia al suo posto, ma è anche chiaro che egli, Spinoza, così non fa che girare le difficoltà, perché la difficoltà è di attingere l'essere di fatto e di introdurre dialetticamente l'idealità di Dio nell'essere di fatto. Per essere di fatto, Kierkegaard intende, come leggiamo poco prima, l'essere dell'esperienza finita, sempre segnato dallo sviluppo dialettico della propria determinazione. Il problema sembra così coinvolgere più che la protefilosofia, la prima filosofia, il nesso dell'essere ideale con il mondo finito e con la determinabilità del principio a partire dall'esperienza dell'esistente. Converrà ricordare a questo proposito che Kierkegaard, quando parla di filosofia prima, pensa anche a Schelling, che nelle sue lezioni berlinesi sulla filosofia della religione aveva parlato, riferendosi ad Aristotele, di prote-episteme, come dell'approdo metafisico, ma solo in senso negativo. La riflessione trascendentale che giunge necessariamente all'asserto di un atto primo e puro dell'essere, senza tuttavia poterlo comprendere nella sua natura, nel suo was, nel suo che cosa. Lo spazio di questa comprensione, come si sa, era stato affidato dall'ultimo Schelling alla propria filosofia positiva. Kierkegaard, nel concetto dell'angoscia, ricorda appunto questa distinzione, con una presa di distanza dalla schellingiana filosofia positiva, ma anche con una nota di comprensione per la correttezza della filosofia negativa. Il richiamo alla schellingiana prote episteme, dove l'asserto di un primo principio è per un verso affermato appunto come inderogabile, ma per altro verso riconosciuto come non sufficiente in sé per coglierne il nesso con l'esistente, quel richiamo può comunque già chiarirci il limite di cui Kierkegaard parlava a proposito di Spinoza. La difficoltà ad attingere l'essere di fatto e di introdurre dialetticamente l'idealità di Dio nell'essere di fatto. Il rapporto con Schelling sembra dunque decisivo. E del resto noto che Kierkegaard fra il 15 novembre del 1841 e il 4 febbraio del 1842 fu un attento uditore delle lezioni berlinesi di Schelling. Si ricorderà anche che l'entusiasmo dichiarato dal nostro dopo i primi ascolti fu via via seguito da una crescente delusione. Ma questo non toglie che i riscontri del dettato schellingiano siano nelle pagine di Kierkegaard abbastanza significativi. Il confronto potrà forse aiutarci a chiarire anche le difficoltà incontrate sin qui. Converrà riferirci in prima battuta all'ottava lezione berlinese di dove Schelling mette in questione la prova ontologica, ritorniamo al punto, riferendosi segnatamente, oltre che ad Anselmo, a Cartesio, Leibniz e Spinoza. Le diverse versioni della prova consistono, secondo Schelling, in una sorta di sterile tautologia. Noi possiamo certamente pensare l'essere più alto, e l'essere più alto implica per se stesso l'esistenza. Questo però non significa che l'essere più alto sia, ma che una volta dato per esistente debba implicare necessariamente l'esistenza. Detto altrimenti, e con le parole di Schelling, l'essere più alto esiste, si noti bene, se si dà un essere che sia il più alto nel senso che esso implica l'esistenza. Ma allora la proposizione che esso esiste è ancora soltanto tautologica. La conclusione dunque può solo suonare così. Di conseguenza Dio esiste necessariamente se egli esiste, il che lascia dunque impregiudicato se egli esiste o non esiste. È un testo difficile, contorto, come vediamo, ma cerchiamo di scioglierlo. Può sorprendere che l'argomento ontologico sia trascritto nella forma di un inconcludente truismo, così come poteva sorprendere l'analoga trascrizione che Kierkegaard fa della formula leibniziana. E tuttavia la critica di Schelling ha un peso ben più significativo, soltanto che si distinguono i termini cui si riferisce. Il testo di cui disponiamo non ci aiuta certo con le sue sovrapposizioni, ci mette però sull'avviso con la notazione che segue immediatamente la critica. La prova ontologica, dice Schelling, se ben condotta avrebbe potuto portare all'inizio della filosofia positiva, vale a dire al culmine della filosofia negativa. In altri termini, essa avrebbe una sua validità quando rinviasse il pensiero ad una primitività assoluta dell'essere, ad un'infinita potenza d'essere che in se stessa non è potenza ma puro atto. E però essa erra nell'attribuire a questa originaria del tutto indeterminata esistenza il nome di Dio. Ciò può farlo solo a posteriori e sarà appunto il compito della filosofia positiva. A questo riguardo Schelling chiama in causa proprio Spinoza, con un rilievo di cui ora ci è facile ritrovare l'eco nell'obiezione di Kierkegaard sopra ricordata. Il più alto concetto di Spinoza, dice Schelling, sarebbe infatti quel meramente esistente che egli stesso così descrive, quod non cogitari potest nisi existence, in cui nulla è pensato se non appunto l'esistenza, e che Spinoza in verità chiama Dio, ma che non è Dio. Il nome di Dio è un posterius di cui si potrà dar prova solo a partire dall'essere di fatto. L'errore di Spinoza sta dunque nel non aver distinto i piani dell'essere, nel non aver mostrato come quel meramente esistente è un actu secondo l'esistenza, mentre è a posteriori come Dio. La distinzione rinvia ad una prima fondazione della filosofia, quella che nella prospettiva schellingiana pertiene alla filosofia negativa, ma insinua anche una oscillazione piuttosto equivoca. Qual è infatti il valore di quel prius, di quel meramente esistente che una semplice regressione della ragione esige di porre? Per un verso sembra che si resti nell'ambito del puro pensiero, come del resto Schelling aveva già detto nelle sue lezioni di Monaco, obiettando ad Hegel che la logica per se stessa non ha altro contenuto che il possibile. Anche questa prospettiva, come facile notare, ha un suo riscontro nella critica di Kierkegaard alla prova ontologica. Per altro verso, si deve rilevare che l'infinita potenza d'essere, cui il pensiero del reale deve rinviare come alla condizione di possibilità per una intelligenza di ciò che esiste, non è un puro dato ideale, anzi l'ultimo das è l'ultimo che c'è. L'ultimo das senza di cui una qualunque filosofia positiva, che cioè mirasse a chiarire i contenuti di realtà non avrebbe una referenza fondativa. È, come dice Schelling, il meramente esistente, l'atto puro, essere di là dall'essere e potenza di ciò che già è. L'essere di cui qui si parla non è evidentemente solo ideale, o lo è nel senso che non è rilevabile al di fuori del pensiero e che anzi al pensiero si dà come la condizione che lo precede e come tale l'impensabile che tuttavia non si può non pensare. Tuttavia questo non è che l'approdo di una via, potremmo dire remozionis, di una via negativa che giunge all'asserto e però anche all'indicibilità dell'originariamente reale. L'essere che è di là dall'essere è ugualmente di là dal pensiero che abita nell'esperienza della determinatezza. Questa duplice conclusione risulterà ancora più chiara citando due riferimenti critici, l'uno relativo a Spinoza, l'altro a Kant. Riferendosi al primo, Schelling osserva che non si può contestare a Spinoza il diritto di incominciare assolutamente dall'esistente, poiché noi possiamo anche denominare l'infinitamente esistente ciò il cui essere non è limitato da nessuna potenza precedente. Il semplicemente, il soltanto esistente è proprio ciò che attraverso cui tutto ciò che potrebbe scaturire dal pensiero è fatto cessare, ciò dinanzi a cui il pensiero ammutolisce, dinanzi al quale la stessa ragione si piega, poiché il pensiero ha a che fare soltanto appunto con la possibilità, con la potenza. Dove dunque questa è eliminata, il pensiero non ha alcun peso. Riferendosi poi a Kant, Schelling preciserà infine come il vero problema non è quello dell'asserto del principio, il das, c'è, bensì quello della sua rappresentabilità, il was, il che cos'è. Si fraintende completamente Kant, dice Schelling, se si volesse vedere nella sua posizione problematica una ripulsa di quella idea. Ciò che egli vuole esprimere è piuttosto soltanto la sua incomprensibilità. Il compito della filosofia positiva sarà appunto quello di tentare una via per infrangere questo limite, per trasformare questo incomprensibile a priori in un comprensibile a posteriori. Prescindiamo per ora dagli esiti della filosofia positiva. Al nostro scopo occorre da ultimo ricordare, ed è il nostro secondo chiarimento, come l'asserto dell'essere necessariamente esistente sia per Schelling non tanto il risultato di un processo dimostrativo quanto l'approdo di una riflessione che raggiunge il supremo a priori di ogni ragione. Si profila in questo senso un capovolgimento della prova ontologica a riguardo del primo fondamento, infatti, del quale maius non datur e che non può non essere pensato. Non si tratta di dire che l'esistente segua dal suo concetto, poiché il suo concetto è di essere semplicemente esistente. Si tratta infatti dell'a priori più alto, del contenuto immediato ed originario della ragione, del prius fondante, che come tale la ragione non ha bisogno di provare. Farebbe cosa superflua, già che in quanto assoluto inizio è sopra ogni prova. La nostra ripresa di Schelling, troppo breve in se stessa, è stata forse eccessiva nell'economia di un discorso su Kierkegaard, tuttavia mi sembrava indispensabile per riconoscere nell'impianto kierkegaardiano forti analogie con quello della schellingiana filosofia negativa. I rilievi potrebbero essere diversi, ma più che mirare immediatamente ai contesti di riferimento converrà insistere su un punto che varrà poi anche come chiave di lettura per l'intero campo dei problemi. In Schelling, come si è ricordato, l'asserto di una primitività pura per quanto indeterminata costituiva un prius fondativo e come tale non provabile della ragione, un das sopra ogni prova per il quale ogni dimostrazione sarebbe superflua. Era questo il punto in cui, con un rovesciamento della prova ontologica, si legittimava lo stesso itinerario della filosofia positiva. Ritorniamo ora dove si era lasciato Kierkegaard nella contesa con Spinoza e rileveremo una trama argomentativa del tutto simile a quella di Schelling. Ci si chiedeva allora quale fosse la consistenza di quell'è attribuito all'idealità più alta. L'idealità più alta è il necessario, perciò esso è, diceva il testo. La domanda può ora sciogliersi non solo ripercorrendo la critica della prova ontologica, ma più in generale la critica ad ogni pretesa di dimostrare la realtà dell'idealità più alta. Anche per Kierkegaard la prova è in questo caso impossibile o superflua. Chi infatti volesse accedere ad una dimostrazione dimostrerebbe qualcosa che spesso non ha neppur bisogno di essere dimostrato e in ogni caso non è meglio provata, perché è lo stolto che dice nel suo cuore non esiste Dio. A parte il significativo richiamo all'impianto di Anselmo, è qui soprattutto interessante il dilemma con cui Kierkegaard appoggia il proprio rifiuto. Se nel momento in cui colui che vuole dimostrare comincia la dimostrazione è ugualmente indeciso se Dio esiste o non esiste, allora egli certamente non dimostra. E se è codesta la sua situazione dall'inizio, costui non arriverà mai ad incominciare, in parte per il timore di non riuscire, poiché Dio forse non esiste, e in parte perché non ha nulla con cui incominciare. Il punto decisivo è l'ultimo. Potremmo scioglierlo nel modo seguente. Se infatti Dio è il fondamento dell'ente, come del pensiero che pensa l'ente, ogni processo dimostrativo deve già presupporlo. La dimostrazione che non lo presupponesse, appunto per poterlo dimostrare, neppure potrebbe incominciare. Poco prima possiamo infatti leggere che io concludo sempre non all'esistenza, ma dall'esistenza di ciò che mi muove, o nel mondo dei fatti sensibili, o in quello del pensiero. A questo modo io non dimostro che esiste una pietra, ma che un qualcosa che esiste è una pietra. Ma che cosa ultimamente muove il pensiero, se non appunto l'essere dell'idea più alta? Così quando la dimostrazione teologica effettivamente incominciasse, essa avrebbe di fatto già presupposto ciò che vuole dimostrare. Precisamente, dice Kierkegaard, nel momento in cui comincio la dimostrazione io l'ho già presupposto, non come cosa dubbia, ciò che non potrebbe di certo essere un presupposto, ma come cosa già pacifica, perché altrimenti non avrei cominciato a dimostrarlo, perché si comprende facilmente che tutto ciò sarebbe impossibile se Dio non esistesse. Una considerazione analoga ritorna nella postilla con un approfondimento. Si potrebbe infatti dire che la dimostrazione può limitarsi a presupporre solo l'ipotesi dell'essere di Dio per avvalorarla poi nella propria conclusione. In questo caso però, nota Kierkegaard, per il fatto che si conclude all'interno di un'ipotesi, non si può certamente mai estendere la conclusione fuori dell'ipotesi. Quando la conclusione è fatta, l'essere di Dio è ugualmente ipotetico come lo era all'inizio. Insomma, l'asserto teologico è dunque in ogni caso un presupposto necessario. Kierkegaard parla a questo riguardo anche di un necessario postulato, ma precisa, non nel significato ozioso in cui di solito si prende il termine postulato. Detto altrimenti, Dio non è un postulato, ma il fatto che l'esistente postula Dio è una necessità. La necessità dell'originario non si dà in tal senso come risultato di una deduzione, ma anzi come l'asserto su cui reggere ogni possibile deduzione. Un asserto che dunque deve formularsi nella forma di una tautologia, sì. E la tautologia qui non è però una sconfitta della ragione, e bensì, dice Kierkegaard, la comunicazione più alta. Insomma, ciò che fonde l'esistente e con l'esistente lo stesso universo del discorso non può essere a sua volta fondato. L'incondizionato, come leggiamo nelle carte, non può essere aiutato con ragioni, perché ciò di cui si danno ragioni io ipso non è l'incondizionato. Che vi siano delle ragioni non è un plus rispetto all'incondizionato, è un minus, una sottrazione che riduce l'incondizionato a condizionato. Vengo all'ultimo punto. Dopo aver ripercorso la definizione del paradosso come struttura fondamentale della ragione, ci si era chiesto se l'impianto di Kierkegaard non fosse attraversato sin dall'inizio da una corrente irrazionalistica. Al centro stava la nozione di spirito come medio dialettico nella relazione finito-infinito, e ci sembrò dunque evidente che una valutazione dell'impianto fosse legata più propriamente al modo con cui era stato introdotto il nesso con l'infinito. Come si poteva correttamente parlare dell'infinito del fondamento che fonda la ragione, di là dalla ragione? Dopo un lungo tragitto siamo ormai ad una considerazione di carattere trascendentale, ad un prius assoluto che come tale deve essere esigito dalla ragione per sfuggire alla contraddizione dialettica, come dice Kierkegaard. Un esito, o meglio un inizio, tutt'altro che nel segno dell'irrazionale. Ci si trova bensì ad un'evidenza primitiva, ovunque presente nel pensiero, sebbene sottesa ed occultata dall'abitudine. Un'evidenza che dunque non ha bisogno di essere provata, ma solo riconosciuta. Ed è significativo che a questo riguardo Kierkegaard ricordi ancora il percorso della reminiscenza platonica ed anche l'intuizione intellettuale di Schelling. Il richiamo a Schelling, così come è fatto nel concetto dell'angoscia, dove appunto Kierkegaard cita l'intuizione intellettuale, non implica di per sé una completa adesione, come non lo implica il richiamo a Platone. Resta in ogni caso che il seguito dell'argomento di Kierkegaard lascia intravedere un eco non indifferente delle lezioni dettate da Schelling. Si ricorda ancora come proprio in quelle lezioni si tornava a affermare che ogni prova dell'essere originario, del necessariamente esistente, deve considerarsi superflua e proprio in forza del carattere originario fondante dell'essere. In definitiva, il percorso fondativo della schellingiana filosofia negativa, almeno nei modi delle prime lezioni beleniesi, sembra ritornare incisivamente nel percorso di Kierkegaard. Occorre però subito aggiungere che le assonanze non vanno oltre il limite della fondazione negativa. Si direbbe anzi che Kierkegaard, uditore disilluso di Schelling, abbia ritenuto di mantenere con rigore i risultati della filosofia negativa, ossia di ritenerli invalicabili. Nella postilla leggiamo che l'intuizione intellettuale di Schelling non può certo decidere di ciò che è cristiano e quindi non può implicare alcuna determinazione dogmatica. E naturalmente su questo lo stesso Schelling avrebbe potuto convenire, ma solo per procedere dal lato della filosofia positiva, appunto per determinare quel das, quel semplicemente esistente, attraverso l'esegesi della teologia cristiana. È però proprio questo passaggio che Kierkegaard non concede, dicendo dapprima con discreta ironia di non comprendere che cosa fosse la filosofia positiva, ma dichiarando in termini più espliciti l'inaccettabilità della teogonia disegnata da Schelling nel seguito delle sue lezioni berlinesi e ancora prima già nelle ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana. Per questa via Schelling aveva finito, dice Kierkegaard, con l'attribuire a Dio i tratti umani dell'angoscia, dell'ira, del tormento, intesi come doglie per la divina creazione. Era giunto a trattare metafisicamente la dommatica e dommaticamente la metafisica. Questa presa di posizione, non a caso, cade nel punto in cui Kierkegaard torna a discutere della prova ontologica, chiarendo definitivamente il senso dell'obiezione che nelle briciole veniva rivolto a Spinoza. Vi si diceva, come si ricorderà, che la prova spinoziana era in sé ineccepibile, ma con il limite di non poter inserire l'idealità di Dio nell'essere di fatto, nell'esistenza dell'uomo. Dunque, per un verso, la primitività dell'essere, che di là dal pensiero si pone come la condizione di ogni ragione, per altro verso, e proprio per questo, si dà come l'incondizionato che nessuna condizione può adeguare. Dunque, trascendenza immanenze e ad un tempo immanenza sempre trascendente. In termini più aderenti al dettato di Kierkegaard, dall'eternità Dio abita nell'esistente, tuttavia mai come un qui e un là, ma solo come un ubique et nusquam. Si deve così finire nel silenzio o nel raccoglimento muto della teologia negativa? Il paradosso di questo ubique et nusquam resta dunque chiuso in se stesso? Detto altrimenti, può darsi un'alternativa alla pretesa sistematica di Hegel, ma anche di Schelling? L'essere di fatto, come si è già ricordato, è per Kierkegaard l'esistente finito, sempre segnato dallo sviluppo dialettico delle proprie determinazioni. Ma più propriamente, Kierkegaard pone a tema, e in questo suo modo in linea con il pensiero moderno, l'esistente che pensa l'essere. Un esistente che è sempre singolare, che come tale vive nella distanza dall'essere, appunto nel paradosso di ciò che deve essere pensato senza poterlo comprendere. Il problema non è allora, come per Schelling, quello di determinare la realtà dell'essere, il suo was, bensì quello di determinare il come, il vi, il come dell'esistente che si pone in rapporto con Dio. Nel far fronte a questo problema, di nuovo in termini più gravi, ritorna però la domanda sulla indicibilità dell'essere. Non diventa ancora più grave questa indicibilità se appunto si guarda alla singolarità dell'esistente. Si può rispondere, se questa è la difficoltà, alla stessa domanda sul come. Non s'apre qui una prospettiva di tipo relativistico? La base di questo sviluppo si lega a quel modo della vita coscienziale che già abbiamo incontrato nel segno della riflessione doppia. Il passaggio decisivo a questo riguardo è il seguente: la riflessione dell'interiorità e la riflessione doppia del pensare soggettivo. Pensando il pensatore soggettivo pensa l'universale, ma in quanto esiste in questo pensiero e ne fa guadagno nella propria interiorità, egli si isola in modo sempre più soggettivo. Il riferimento all'universale, dunque, ad una struttura intelligibile del reale, resta in ogni caso un punto fermo e un inizio, ma la determinabilità dell'universale nel senso dell'esistenza può trovare il suo spazio solo nella singolarità dei soggetti e in quanto tale sfugge ad ogni dimensione di tipo concettuale. Ci si deve allora ripiegare nel silenzio dell'indicibile o si può prospettare una non falsificante mediazione fra l'universale e il suo come nell'esistente? Si deve ammettere, precisa Kierkegaard, che ogni uomo è essenzialmente in possesso di ciò che appartiene all'uomo. Il compito del pensatore soggettivo allora è di trasformare se stesso in uno strumento il quale esprima chiaramente e distintamente l'umano nell'esistenza. Potrebbe sembrare che in tal modo la dicibilità del come sia affidata alla mediazione dell'esemplarità, appunto il pensatore soggettivo che si fa portatore dell'universale. Ma in questa direzione si cadrebbe nella contraddizione di rendere universale la singolarità del pensatore soggettivo. Kierkegaard l'avverte e con decisione nega questa versione. Possiamo anche proporre, dice ad exemplum, la vicenda di questi o di quegli, ma il fatto che Tizio Caio abbia effettivamente compiuto questa o quella impresa può agire tanto da remora come da stimolo. Quanto più si insiste sul fatto che si tratta di un uomo determinato, tanto più facile diventa agli altri l'eccezione. Insomma, la realtà dell'esistenza non si lascia comunicare, e del resto la comunicazione come forma del pensare rimane comunque sul piano della possibilità. Il pensiero dell'esistente non è l'esistente, ma sempre e solo la sua retrocessione sul piano della riflessione e dunque della mera possibilità. Quel che dunque può essere tentato relativamente alle costituzioni essenziali dello spirito come rapporto è una determinazione delle possibilità in vista dell'esistenza. Se la realtà deve essere compresa da un terzo, da un altro, bisogna che essa sia compresa come possibilità. Un comunicante che ne sia consapevole baderà dunque a far sì che la sua comunicazione esistenziale, proprio per mantenersi nella sfera dell'esistenza, sia nella forma della possibilità. In questa direzione, come sappiamo, Kierkegaard ha via via disegnato una estesa mappa dei possibili esistenziali. Dai piani di vita, l'estetico, l'etico, il religioso, soprattutto in Entenheller, negli stadi sul cammino della vita e della postilla, ai modi dell'angoscia e della disperazione nel concetto dell'angoscia e nella malattia mortale, dove, se il termine non fosse inviso all'animus di Kierkegaard, potremmo persino ravvisare una vera e propria sistematica dei possibili. Si può peraltro dire di più, ricordando che il pensatore soggettivo, per raggiungere forme sempre più concrete, viene invitato a consigliarsi con la poesia, con la dialettica, con la religione. I possibili vengono così via via tradotti nella figura dei diversi autori pseudonimi o nelle figure letterarie, per esempio, di Entenheller, degli stadi, della ripresa e infine nella rivisitazione di Abramo, di Giobbe, in Timore e Tremore, nel Vangelo delle Sofferenze, ma appunto non per proporre modelli da contemplare, magari come inarrivabili, bensì per rimandare il contemplante al suo interno, per prospettargli un'esigenza che l'interpella fino al punto da fargli dire: ma perché non io, perché anch'io? Tutto questo però non toglie la differenza di ogni singolarità e quindi quel tanto di intraducibile nei modi di un pensiero comune. Soprattutto non toglie per sé e per altri la distanza o la negatività rispetto all'infinito, quella negatività che in ogni soggetto esistente è costituita da una sintesi che vede sempre ad un tempo la sporgenza dell'infinito rispetto al finito. Per questo, conclude Kierkegaard, l'autentico pensatore soggettivo vive sapendo della negatività dell'infinito nell'esistente e mantiene sempre aperta questa piaga della negatività. Il paradosso della ragione e la passione del pensiero vengono così a costituire la carne quotidiana dell'uomo che voglia veramente essere spirito. Paradosso e passione si traducono infine nel modo più esteso, nella sofferenza interiore di ogni coscienza religiosa, sofferenza che, isolando al cospetto dell'infinito e ad un tempo anche isolamento nella comunicazione più intima con l'altro. La realtà della sofferenza significa la sua essenziale permanenza ed il suo rapporto essenziale alla vita religiosa. La dimensione del paradosso troverà, come noto, la sua enfasi più alta nella prospettiva della fede cristiana. La fede dell'incarnazione di Dio nell'uomo Gesù, che Kierkegaard definisce più precisamente come la religione del paradosso o del paradosso assoluto, dove l'intelligenza diventa attenta all'incomprensibile e si rapporta a questo credendo contro la ragione. Anche il cristiano, avverte Kierkegaard verso la fine della postilla, non può credere nessuna assurdità contro l'intelligenza. Ciò che forse qualcuno potrebbe temere, perché la ragione vedrà precisamente da parte a parte che è un non senso e gli impedirà di credervi, ma egli usa l'intelligenza tanto meglio in quanto attraverso l'intelligenza, egli diventa attento all'incomprensibile e allora solo si rapporta credendo contro la ragione. In questa tensione dialettica la coscienza del paradosso resta comunque animata da quella relazione con l'intelligibile e ultimamente con il principio dell'essere che ci si rivelò come l'elemento costitutivo dell'impianto di Kierkegaard. A sigla conclusiva del nostro percorso potrebbe allora valere questa definizione che fra il 1849 e il 1850 Kierkegaard torna a dare del paradosso. Dice: il concetto dell'assurdo è proprio nel comprendere che non si può e non si deve comprendere, una categoria negativa ma altrettanto dialettica come qualunque principio positivo. L'assurdo, il paradosso, è costruito in modo che la ragione non può da solo risolverlo e mostrare che non ha senso. No, esso è un segno, un enigma di sintesi di cui la ragione deve dire è irriducibile, è incomprensibile, ma non perciò è un non senso. Grazie. Ecco, ringraziamo di questa bella conversazione. Direi che i punti fondamentali sono stati questi: di mettere in evidenza il momento razionale del paradosso, il rapporto critico con Schelling e questa stare attento a non cadere in una dimensione del soggettivo. Questi direi sono i tre punti fondamentali di questa bella relazione che dopo leggeremo.